E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Inizia un'altra puntata di Focus Economia e allora i temi di questa giornata economico-finanziaria e delle parole del Presidente del Consiglio che hanno riguardato in quel caso soprattutto il disegno di legge sulle intercettazioni, ma anche temi legati all'economia. Per quello che riguarda l'economia, oggi si segnala anche un dato sull'inflazione italiana di cui parleremo, l'inflazione tutto sommato stabile con un leggero rallentamento a maggio, più 1,4% dall'1,5% di aprile. Di nuovo reazioni invece sul fronte Pomigliano d'Arco, perché c'è in qualche modo, chiamatela come volete, ma una spaccatura tra la CGIL, quindi la casa madre, e la FIOM. Sono arrivate anche parole abbastanza critiche dalla FIOM di Landini nei confronti della CGIL, che ha invitato a votare comunque sì al referendum per Pomigliano d'Arco. E poi la Spagna. La Spagna fa di nuovo notizia, anche se non è il motivo principale oggi sui mercati. Fa di nuovo notizia perché questa volta non su un quotidiano americano, ma su un quotidiano spagnolo, La Vanguardia da un lato e L'Economista dall'altro, sono uscite alcune indiscrezioni di un piano di salvataggio che l'America starebbe predisponendo per un'eventuale difficoltà nei conti pubblici spagnoli, piano da 200-250 miliardi sulla falsa riga di quello già individuato e realizzato per la Grecia. Il numero per i vostri sms, come sempre, 349-238-6666. E allora subito le altre notizie in breve. Partiamo dal petrolio e poi adesso arriveremo alle borse, perché c'è qualche nota degna di importanza oggi su un mercato tendenzialmente debole, anche se non in maniera preoccupante. Dicevo, il petrolio dopo i dati sulle scorte americane ha accentuato il calo, ha perso infatti mezzo punto percentuale a $76.50 al barile. Resta comunque alto il petrolio per quello che riguarda l'andamento del greggio, stabilmente ormai da settimane sopra i $70 al barile. E proseguono anche i rialzi per la Verde, sia su esso che su Kuwait. Si è sopra ormai l'euro e 42 al litro per quello che riguarda chiaramente la benzina, e anche il gasolio è salito sopra un euro e 28 al litro. L'economia internazionale, partiamo sempre da qui. La produzione industriale in America nel mese di maggio è salita dell'1,2%, è un rialzo forte, il rialzo più forte da agosto del 2009. Dicevamo della Spagna, ne parleremo in maniera approfondita più avanti. Comunque aumenta la differenza tra quanto rende un'obbligazione tedesca e un'obbligazione spagnola, è a 223 punti, ossia il 2,2%, e da questo punto di vista, di differenza, non nel rendimento, è la quota più alta da quando la Spagna è entrata nell'euro. Si vede già dei messaggi sul piano citato oggi da alcuni quotidiani spagnoli, vi arriveremo, anche perché è arrivata comunque una secca smentita da parte del portavoce del commissario europeo agli affari economici e monetari Olli Rehn. E anche il governo spagnolo ha definito false le informazioni su eventuali piani di salvataggio che l'Unione Europea e il Fondo Monetario starebbero predisponendo, ma il presidente della Banca Centrale Europea, Jean-Claude Trichet, ha chiesto garanzie, anzi è meglio, ha chiesto che il fondo su cui i paesi europei si sono messi d'accordo, il fondo che vale circa 500 miliardi di euro, il fondo salva euro come è stato chiamato, sia pronto per essere utilizzato in aiuto della Spagna in caso di emergenza. Anche qui lo ha scritto un settimanale, il settimanale tedesco Die Zeit, in un'anticipazione diffusa oggi. E sempre sulla Spagna oggi si è concentrato anche il Financial Times, che ha raccontato che lo scorso mese le banche spagnole avrebbero fatto ricorso a prestiti della Banca Centrale Europea per 85 miliardi di euro. Allora vediamo come sono mossi i mercati sulla base di queste notizie. Devo dire, la giornata è contrastata, ha avuto anche degli scivoloni, ma nulla di eccezionale, quindi di preoccupante. Meno 0,5% il FTSE MIB, più 0,2 Parigi, più 0,2 anche Francoforte. Invariata Londra, l'America adesso perde uno 0,23%. Tra i titoli segnaliamo bene, grazie anche al prezzo del petrolio, Eni più 1%, Generali più 1% anch'essa, Snam più 0,80, come A2A e Mediolanum. Tra i peggiori invece ST Microelectronics, che ieri molto era cresciuta, meno 3,5%, Buzzi Unice meno 2,90, Mediaset meno 2,70 come Unicredit, il 2,5% lo perde Autogrill, il 2,1 Pirelli, l'1,70 Italcementi, l'1,40 Geox, e l'1,40 il calo anche di Fiat, l'1,3 quello di Prismian, Impregilo e ancora Ubibank. Le riforme degli altri, poi arriviamo alle notizie che riguardano l'economia italiana. Le riforme degli altri: in Francia si punta comunque a un aumento dell'età pensionabile di almeno 2 anni, quello che noi chiameremmo uno scalone, e a un aumento della pressione fiscale per i redditi più alti. Le persone a reddito più alto dovranno pagare di fatto più contributi pensionistici. L'età minima per andare in pensione aumenterà gradualmente dagli attuali 60 anni per arrivare a 62 nel 2018. In questo modo la Francia pensa di cercherà comunque di ridurre il deficit di almeno 0,5 punto percentuale da qui al 2013. Veniamo all'Italia. Mentre la Banca d'Italia fa sapere che nel 2009 il calo del PIL lombardo, andate infatti a analizzare l'andamento dei PIL regionali, è stato superiore alla media del paese, meno 5,3% contro un 5% di media nel calo del PIL italiano, continua la polemica su Pomigliano d'Arco. E allora, su Pomigliano d'Arco, nell'ordine, questa mattina è tornata sul no della FIOM la presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, che al microfono della nostra Alessandra Schepisi, a margine dell'assemblea di Confcommercio, ha detto: il no della FIOM è incredibile. È incredibile che davanti a un'azienda che va contro la storia, prende produzioni dalla Polonia e le riporta in Italia, investe 700 milioni di euro, davanti a una situazione di questo tipo ci sia un no. Quindi attendiamo a questo punto di capire che cosa vogliono fare i lavoratori. E poi la vicenda Pomigliano d'Arco vista dal fronte sindacale. Il segretario, il leader della CGIL, Guglielmo Epifani, sempre al microfono della nostra Alessandra Schepisi e sempre a margine della Confcommercio, ha fatto un distinguo, ha preso le distanze, insomma, la forma retorica interessa poco, ha detto in sostanza che i lavoratori di Pomigliano secondo lui diranno sì nel voto al referendum all'accordo proposto dalla Fiat. Tocca alla FIOM decidere cosa fare in materia di referendum. È corretto che la FIOM dica ci sono materie non disponibili al referendum, e però è altrettanto importante che i lavoratori siano coinvolti, partecipino. Quindi vedremo nei prossimi giorni. A occhio e croce direi che i lavoratori andranno a votare e a occhio e croce immagino che i lavoratori diranno sì. Per quello che mi riguarda è un sì all'occupazione, al lavoro e agli investimenti. E invece fortemente critico sull'accordo l'ex segretario della CGIL e attualmente europarlamentare del PD, e mi riferisco chiaramente a Sergio Cofferati, ex sindaco di Bologna. Al microfono della nostra Anna Migliorati, così si è espresso. Io credo che chi ha un minimo di esperienza sindacale non può non rendersi conto dei pericoli gravissimi che sono insiti in quell'accordo. È un problema complessivo, ma se lo fa la Fiat, perché non lo deve fare la piccola azienda in crisi della provincia di Varese? Varrà la deroga territoriale? Non credo. Il mercato deve essere uniforme. E d'altronde far pronunciare dei lavoratori sotto il condizionamento pesantissimo del rischio del loro posto di lavoro è una pessima scelta. Così Sergio Cofferati, pessima scelta, è un giudizio assolutamente inequivocabile. Nel frattempo il ministro Sacconi ha detto non vedo a rischio l'investimento della Fiat in a Pomigliano, anche diciamo dal no della FIOM. E sulla vicenda dello stabilimento campano è intervenuto anche il leader del PD, e mi riferisco chiaramente a Pierluigi Bersani, intervistato dalla nostra Chiara Di Michele. Insomma, ha detto insomma si poteva forse fare uno sforzo in più. Forse con uno sforzo in più si sarebbe potuto arrivare agli obiettivi senza sfiorare temi delicati di ordine giuridico. Detto questo, io dico adesso bisogna ascoltare i lavoratori che si pronunceranno, come sarebbe giusto si pronunciassero sempre, diciamolo pure. Ecco, un punto mi preme sottolineare. Abbiamo detto tutti che questo è un caso particolare, eccezionale. Perché per la prima volta c'è un'impresa per Baco che fa un'operazione di rimpatrio, no? Dalla Polonia all'Italia, e perché quello stabilimento effettivamente ha avuto dei problemi particolari. Quindi una situazione particolare, una risposta particolare. Ecco, non facciamo dell'ideologia su questo avvenimento, non facciamone la risposta esemplare, perché le relazioni industriali meritano una modifica, una riforma, un approfondimento che tenga conto che non tutta Italia, non in tutti i luoghi, non in tutte le situazioni ci sono le stesse condizioni. E allora, in attesa poi del referendum, di quello che sarà l'esito del referendum, colleghiamoci con Pomigliano d'Arco, dove c'è il nostro Paolo Picone. Paolo, buonasera. Sì, buonasera. Tu anche qui oggi stai raccogliendo varie testimonianze e soprattutto della FIOM, Paolo. Sì, la FIOM che ha chiamato a raccolta tutti i lavoratori iscritti al proprio sindacato qui a Pomigliano per spiegare le ragioni del no all'accordo con Fiat, e a sorpresa si è presentato, non era previsto, anche il segretario nazionale generale Maurizio Landini, e proprio mentre loro iniziavano arrivava la notizia di un comunicato della CGIL di Napoli e della Campania che invitava i lavoratori iscritti alla FIOM del CGIL ad andare a votare al referendum e addirittura a votare sì. Questo ovviamente ha scatenato le ire della FIOM e del segretario nazionale ed anche della segreteria provinciale. Quindi io ascolterei proprio le parole prima di Landini e poi anche del segretario provinciale di Napoli, Massimo Brancato. Sarà un impegno che riguarda la CGIL Campania. Noi qui siamo qui, le decisioni si prendono qui con gli iscritti di Pomigliano. Come comitato centrale della FIOM noi abbiamo già detto che quell'accordo non è firmabile, non c'è nulla da cambiare perché il testo è esattamente quello che si è detto che non è da firmare. Discuteremo oggi qui con i delegati, però siamo di fronte a un referendum illegittimo. È illegittimo sia perché viene messo al voto un diritto costituzionale, quindi non si vota contro la Costituzione, e secondo, siamo di fronte a una minaccia, non è che uno può liberamente scegliere, se uno vota sì è per l'investimento, se vota no è per la chiusura della fabbrica, quindi questo non è un referendum libero, è sotto minaccia, nessuno può prendere decisioni libere, quindi da questo punto di vista questa è la situazione. E sotto questo ricatto credo che noi non dobbiamo esporre i lavoratori a un ricatto, e in questo senso quel referendum non è un referendum che vincola. Per queste ragioni la FIOM ha già detto quello che deve fare. Siamo qui a discutere, ma noi non diamo mica indicazioni di votare in nessun modo. La FIOM, la responsabilità di non firmare l'accordo, se l'è già assunta, non chiede di esporre i suoi iscritti. Mi permetto di ricordare ai dirigenti della Campania e di Napoli della CGIL che per statuto la CGIL non può mettere a referendum accordi sindacali che violano le leggi dello Stato e della Repubblica. Beh, insomma, Paolo Piccone, così, l'irritazione per essere buoni del FIOM Campana, come nelle voci che abbiamo appena ascoltato di Massimo Brancato, ma anche della FIOM Nazionale, e la prima voce era appunto del segretario nazionale della FIOM, Maurizio Landini, è palese, sembra quasi appunto di accusano una pugnalata alle spalle, Paolo. Sì, infatti la parola detta durante l'incontro, poi tra l'altro ha preso la parola proprio un membro della segreteria provinciale della CGIL, Libertini, Giuseppe Libertini, e non è riuscito a finire il suo intervento perché è stato duramente contestato dagli iscritti alla FIOM che l'hanno più volte interrotto. E quindi la tensione anche in questa riunione è molto molto molto alta. Allora, dico a chi scrive al 349-238-6666 che bisogna poi leggere la proposta, perché ieri ne abbiamo parlato anche con chi rappresenta la Fiat, chiedendogli appunto se era così necessario arrivare a toccare i temi della malattia o dello sciopero, e sulla malattia il ragionamento che è stato fatto è stato un po' diverso da quello che anche noi inizialmente avevamo capito. Vi invito a riascoltare l'intervista, cioè ci sono stati dei casi a Termini Imerese di sciopero perché non si riusciva a vedere la partita di calcio, e casi continui di malattie, e allora lì l'accordo è quando le malattie sono sopra un certo livello si perde l'indennità, perché insomma sembra anche strano delle volte che vi siano delle coincidenze, per esempio in caso di sciopero molti lavoratori si mettono in malattia per non perdere l'ora, la giornata di lavoro. Quindi attenzione su questo, leggete bene la proposta della Fiat. Comunque grazie a Paolo Piccone in collegamento con noi da Pomigliano d'Arco. Una risposta brevissima a chi ha scritto al 349-238-6666 su Pomigliano d'Arco. Allora, ripeto, la trovate su internet, riascoltate l'intervista ieri con il capo della relazione istituzionale della Fiat. Abbiamo chiesto se al di là del turno su 18 ore che secondo la Fiat serve per arrivare a produrre quelle 260.000 Panda che verranno trasferite dalla Polonia allo stabilimento di Pomigliano, se era necessario andare a toccare malattia come tema e diritto di sciopero. Sul diritto di sciopero la spiegazione è un po' più tecnica, cioè si chiede che non venga rimesso attraverso uno sciopero in discussione ogni volta l'accordo raggiunto. Sulla malattia, che è quello su cui vedo molti di voi stanno rispondendo, è verissimo che di mezzo sui certificati medici andrebbero controllati anche i medici stessi, ma non lo può fare la Fiat, abbiate pazienza, non ha nessun diritto la Fiat di chiedere la verifica o il controllo, dovrà essere lo Stato, casomai il Ministero, andare a verificare come mai, se vi sono casi di certificati medici che non stanno in piedi, che non sono plausibili, l'azienda può solo mandare l'ispezione, ma altro non può fare. Dopodiché oggettivamente c'era un tasso di assenteismo in questa fabbrica che era superiore a quello delle altre, e già anche dopo la riforma. Quindi attenzione ai luoghi comuni. Comunque adesso la borsa. Meno 0,1% alla fine, ha ridotto tutto il calo Milano, meno 0,2% in questo momento l'America, più 0,4% Francoforte, più 0,2% Parigi, ancora più 0,2% adesso Londra. L'euro è 1,2322, quindi stabilmente sopra quota 1,23, sembra essere un livello in cui in questo momento l'euro si è assestato, 1,22, 1,23 con qualche puntata fino a 1,19. I titoli, dicevamo, Eni più 1,4%, Generali più 1,3%. Oggi una giornata non entusiasmante, non ricca di spunti per quello che riguarda la borsa. Qualche realizzo ci stava, per esempio, su ST Microelectronics, che perde il 3,40%, Buzzi Unice meno 3, molto bene ieri Mediaset, oggi perde il 2,5%, Autogrill meno 2,4%, Pirelli meno 2, anche Pirelli molto era cresciuta, Unicredit meno 1,90, Impregilo meno 1,4, Italcementi meno 1,3, Geox pure, Fiat perde l'1,1, i migliori e peggiori in assoluto, Riccio Aginori migliore più 12,20 e poi Intech più 5,30, sempre tra i migliori, l'ex filatura di Pollone che si chiama adesso Le Buone Società ha guadagnato il 5,91%, e la Roma Calcio il 4%, Poligrafica San Faustino più 4,1. Tra chi perde invece Nokia molto male, meno 9,3%, PMS meno 5,15 e poi TAS meno 4,60, Realizzi su Ciccolella meno 4%. Andrea Fontana, Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Dunque, giornata così, normale. Ogni tanto ci stanno bene anche queste. Attenzione, e molta attenzione sul comparto assicurativo. Sì, è da qualche giorno che si mostra un recupero sul comparto assicurativo, sono diversi gli operatori a ritenerlo piuttosto scontato, quindi che ha pagato molto gli effetti, anche gli ultimi effetti del mese di maggio della crisi, e quindi vediamo guardando in casa nostra le generali che mettono a segno un'altra seduta di recupero. Oggi ha guadagnato l'1,3%, ma gli sono andate dietro Mediolanum, Fondiaria Sai, se ha tenuto anche Unipol, un movimento che si è mostrato positivo anche in tutta Europa. Alcune rassicurazioni sono arrivate sul comparto appunto delle compagnie da parte dell'agenzia di rating Fitch, che non vede effetti sostanziali sui rating delle compagnie, quindi modifiche sui rating delle compagnie dall'applicazione di Solvency 2, cioè questa nuova regolamentazione criteri di maggiore attenzione sulla capitalizzazione delle assicurazioni. Parla anche, dopo l'applicazione di queste regole, di un nuovo effetto eventualmente sull'aggregazione delle compagnie assicurative. Insomma, su questi elementi comunque di fiducia oggi il mercato si è ben mosso sulle compagnie, meno sul settore bancario invece. Nokia, che è successo? Per quanto riguarda Nokia, oggi è arrivata, era un po' attesa, dicono gli operatori. Comunque oggi è stato ufficializzato questo taglio delle stime per quanto riguarda i risultati del secondo trimestre da parte appunto della compagnia finlandese dei telefoni, un taglio che è stato accolto molto male dal mercato. Nokia stessa ha perso il 9,5%, doveva aver perso durante la seduta oltre l'11%, ne ha pagato le conseguenze un po' tutto il settore legato a Nokia, ST Microelectronics in primis. ST però, ricordiamolo, ieri aveva beneficiato di quell'euforia un po' da nuove operazioni straordinarie che interessavano una divisione di Infineon, ieri era stata tra le migliori, oggi i realizzi ma soprattutto i risultati di Nokia l'hanno portata a perdere quasi il 3,5%. Allora, su questo c'è stata anche un'influenza, o meglio, una ricaduta su ST Microelectronics. ST bene si era mossa nelle sedute scorse, però oggi è il peggior titolo tra quelli di maggiore capitalizzazione, sotto i 7 euro per azione, 6,96. Esattamente, come ST nel comparto chip poi hanno perso anche Infineon, ha perso anche ASML Holdings in Olanda, e certamente questo effetto di Nokia, per quanto rumoreggiato dal mercato nei giorni scorsi, si è fatto sentire pesantemente, tant'è vero che il comparto dei tecnologici è stato decisamente il peggiore, ha perso quasi l'1,9% in tutta Europa. ST, che pagava anche dei realizzi rispetto alla seduta di ieri, ha fatto ben peggio della media, insomma. Ancora tra i titoli, vabbè, Mediaset dopo l'effetto News Corp BSkyB di ieri ha avuto qualche realizzo, pesa però anche la bocciatura del Tribunale Europeo per il ricorso che il gruppo aveva fatto contro la decisione della Commissione Europea che imponeva all'Italia di recuperare i contributi concessi per l'acquisto dei decoder digitali. Cioè, insomma, la Commissione Europea dice che quelli erano aiuti di Stato. Sì, per quanto riguarda questo effetto, diciamo che gli operatori e gli analisti che trattano il titolo Medias non hanno visto una particolare, diciamo, effetto negativo sulla performance di oggi derivante dalla decisione del Tribunale europeo sulla questione Decoder. Va però sottolineato che Mediaset aveva guadagnato il 10% nelle ultime 5 sedute consecutive. Ieri tu hai ricordato diciamo l'euforia, gli acquisti in scia alla questione News Corp BSkyB, quindi oggi sono più che altro realizzi, anche perché di fatto, come sottolinea qualche analista, l'impatto effettivo, diciamo così, di questa sentenza su Mediaset è veramente contenuto in termini di ammontare, diciamo, del rimborso dovuto, quindi diciamo l'impatto sui conti è veramente ininfluente. Allora, devo ancora delle risposte ad alcuni ascoltatori sulla vicenda di Pomigliano d'Arco. E vabbè, noi andiamo avanti con la borsa e poi diamo anche quelle. I petroliferi, mi sembra di poter dire, chiudere il commento, Andrea, con il rialzo del prezzo del petrolio, il rialzo anche della benzina alla pompa, per cui insomma lì quello è l'impatto più forte. Fiat in calo oggi, -1,1, ma il comparto auto in generale oggi ha sofferto in Europa, anche se Volkswagen ha distribuito dei dati e delle stime migliori delle attese, se ho ben capito. Sì, certamente. Oggi, diciamo così, c'è stato un po' sul comparto auto un effetto ritardato dalle indicazioni sulle immatricolazioni che erano uscite ieri mattina. Ieri un mercato particolarmente tonico aveva fatto sì che dopo un inizio stentato il settore auto andasse dietro, diciamo così, alla scia del mercato. Oggi in un mercato in correzione il comparto auto ha sofferto, ha perso praticamente il 2% come media europea guardando l'indice di settore. Volkswagen, tu ricordavi, ha alzato le previsioni sulle vendite e sull'utile operativo 2010, questo gli ha permesso di perdere un po' di meno, tant'è vero che ha perso poco sotto la parità, ha perso lo 0,3%, hanno sofferto un po' di più Fiat, come tu ricordavi, ma un po' di più hanno sofferto anche gli altri titoli del comparto auto, ad esempio in Francia Renault e Peugeot ha perso oltre l'1%, Michelin ha perso il 2,5%, Renault ha perso lo 0,5%. Grazie Andrea Fontana, Radio Cori, Sole 24 Ore. E adesso, nel minuto prima le informazioni per chi è in viaggio, qualche risposta e anche spiegazione sempre su Pomigliano d'Arco, poi invece parleremo dei commercianti, dell'Assemblea di Confcommercio e poi della Spagna. Devo dire che non è proprio giornata per la Spagna, perché non solo si stanno diffondendo voci appunto sul Financial Times da una parte, sul Die Zeit in Germania dall'altra, sui quotidiani spagnoli di un eventuale prestito di cui i paesi europei si starebbero già occupando col Fondo Monetario Internazionale, ma se tanto mi dà tanto, la Spagna va a perdere anche con la Svizzera, perché riusciamo anche a guardare le partite mentre siamo in diretta e sta perdendo 1-0, mancano 30 secondi alla fine ufficiale del tempo. Non voglio però sostituirmi ai colleghi dello sport, voglio dare qualche risposta invece su Pomigliano. Allora, alcuni messaggi sono veramente incredibili, perché c'è chi dice, insomma, si può ipotizzare che Radio 24 non sia esattamente neutrale rispetto a Pomigliano. Allora, perché? Perché della Fiat? Perché siamo schiavi della Fiat? Cioè, queste cose non le capisco veramente. Allora dovremmo non essere imparziali rispetto a niente, visto che parliamo di economia e finanza tutti i giorni che Dio manda in terra, tranne i sabati e le domeniche, e l'editore è sempre Confindustria. Qual è il problema? Poi c'è chi dice, dica la sua capa vuole un esercito di schiavi, insomma siete delle M. Allora, io ho un direttore maschio, per cui fino a prova contraria questo è il mio capo, ma io vorrei capire qual è il problema. In Italia ci sono 20.000 dipendenti Fiat che producono 650.000 auto, in Polonia ci sono 5.800 dipendenti Fiat che producono 600.000 auto. Quindi c'è chiaramente il bisogno per la Fiat di aumentare la produttività. Dopodiché, abbiamo spiegato in questi giorni, Cassino non è un problema. Gli altri stabilimenti della Fiat non sono un problema. c'è stato uno storico problema, vabbè, con Termini Imerese, anche lì abbiamo chiuso la vicenda, è completamente irrazionale da un punto di vista logistico quella fabbrica, ma a Pomigliano d'Arco c'è un problema fortissimo, la fabbrica ha avuto infiltrazione camorrista, è stata messa praticamente tutta la fabbrica in cassa integrazione nel 2008 per riformare i vari dipendenti. I livelli di produttività sono abbastanza buoni, se non che produce dei modelli come l'Alfa GT o i modelli di fascia alta dell'Alfa che vendono poco, e quindi i 5.800 dipendenti di Pomigliano, che sono praticamente quelli che la Fiat ha in Spagna, producono 40-50.000 vetture contro la Fiat in Polonia contro le 600.000 che la Fiat con gli stessi dipendenti produce in Polonia. Se la Fiat investirà 20 miliardi, questo è il piano, il progetto Italia della Fiat in Italia, e porterà lì la produzione di Panda a Pomigliano, si può anche chiedere uno sforzo, dopodiché i turni a 18 turni ne abbiamo parlato, la pausa pranzo e quant'altro, però attenzione, non è sempre che da una parte c'è tutto il bene, dall'altra c'è tutto il male. Andate a vedere i tassi di assenteismo a Pomigliano quando ci sono le elezioni, o quando ci sono le partite, o quando ci sono gli scioperi, quante persone scioperano veramente, quante si mettono in malattia. E allora il Presidente del Consiglio ha detto: attenzione, i pensionati e i dipendenti pubblici non hanno avuto nulla da soffrire dalla crisi, e quindi non hanno sofferto da questa crisi. L'Italia sta andando meglio di altri ed è nella direzione giusta. So che la crisi è stata dura, ma sono altrettanto sicuro che la ripresa esiste e che si fonda soprattutto sul fattore psicologico. Bisogna che la gente abbia fiducia nel futuro, che non si lasci prendere dal pessimismo e dal catastrofismo. Noi abbiamo fatto a questo proposito un sondaggio presso due categorie di persone che dalla crisi non hanno nulla da soffrire, cioè i pensionati e i dipendenti pubblici. Tra le tante domande c'era la seguente: avevate intenzione, visto le facilitazioni che sono state messe in atto dal governo, di cambiare la vostra autovettura? Su coloro che avevano risposto sì, abbiamo fatto un'ulteriore domanda: l'avete fatto o no? Il 76% ha dichiarato no, abbiamo cambiato idea, non l'abbiamo fatto. Terza domanda: perché? Ma perché c'è la crisi. Questo dimostra ancora una volta quello di cui tutti noi però siamo convinti, che bisogna diffondere fiducia. L'anno l'abbiamo cominciato bene, meglio di Francia, meglio di Germania, con uno 0,5 di aumento, la produzione aumentata, credo che siamo nella direzione giusta. La manovra non comporta sacrifici al mondo delle imprese, comporta sacrifici alle amministrazioni pubbliche che devono limitare e limare le troppe spese inutili e improduttive, i troppi sprechi, devono togliere via molti privilegi assurdi. Abbiamo una popolazione di gente che vive di politica, non solo in Parlamento ma nelle regioni, nelle province, nei comuni. Occorrerebbe dimezzarla e saremmo già con numeri abbondanti. E quindi tutto questo noi pensiamo che si debba fare. Abbiamo imposto una piccola rinuncia agli aumenti a quei 3.600.000 impiegati pubblici, che però negli ultimi 20 anni hanno avuto un aumento dei loro stipendi che è stato quasi il doppio di quello ottenuto da coloro che hanno lavorato nel privato. Così il Presidente del Consiglio Berlusconi durante il suo intervento all'Assemblea di Confcommercio. Volete sapere al 349-238-6666 se Berlusconi ha parlato anche della lotta all'evasione di fronte ai commercianti? No, che io abbia visto dalle agenzie no, però... No, non c'è stato nessun richiamo da parte dell'agenzia a un passaggio su questo, invece è intervenuto sulla liberalizzazione delle imprese, il progetto di disegno di legge Vignali e la riforma dell'articolo 41 sarà un missile a due stadi, prima faremo una legge ordinaria, poi una riforma della Costituzione. E allora, oggi il segretario del PD Bersani ha illustrato le proposte dell'opposizione per quello che riguarda l'economia, ha detto basta con le bolle di sapone del governo che finiscono sempre nel nulla, ci siamo stancati dei pretesti del governo per attaccare la Costituzione, l'articolo 41 non impedisce di semplificare comunque e liberalizzare per le imprese, e poi proposte, secondo Bersani, che permetterebbero di risparmiare 10 miliardi. L'articolo 41 della Costituzione non ha mai impedito, né potrebbe impedire, operazioni di apertura del mercato a vantaggio dei consumatori e operazioni di semplificazione reale della vita delle imprese. Noi oggi lo dimostriamo con qualche esempio, le cose che dirò non sono noccioline, vogliono dire praticare riforme che nell'immediatezza potrebbero spostare, secondo me, non meno di 10 miliardi dalle tasche di rendite e posizioni dominanti alle tasche dei consumatori, e potrebbero semplificare in modo efficace la vita delle imprese e dare qualche prospettiva di più ai giovani attori. Ora, queste proposte, che nell'insieme, ripeto, valgono svariati miliardi di euro, che sono una piccola lenzuolata, neanche tanto piccola, riproponiamo in emendamento alla manovra e sfidiamo il governo a dirci se intende continuare nelle chiacchiere o se intende fare qualche fatto. E le proposte illustrate oggi dal PD prevedono, vi cito le principali, la libertà di approvvigionamento dei gestori della rete di carburanti e l'acquirente unico per il commercio all'ingrosso dei carburanti. La liberalizzazione della vendita di tutti i medicinali a carico dei cittadini, la riforma degli ordini professionali e il sostegno all'accesso delle nuove generazioni, l'abolizione della clausola di massimo scoperto e di altre commissioni analoghe nei conti correnti bancari, la separazione proprietaria tra la rete e il trasporto del gas e l'avvio immediato delle attività produttive con la semplice autocertificazione. E poi Bersani è entrato anche nel tema delle tasse, della pressione fiscale, ha chiesto di spostare il carico delle tasse mantenendo comunque l'ammontare complessivo di entrate fiscali. Noi dobbiamo spostare il carico a parità di entrate. Non è vero che non c'è spazio per riduzione di tasse per chi le paga, se qualcuno in più si mette a pagarlo. Quindi noi abbiamo settori esclusi dal contributo allo sforzo comune, sia in termini di posizioni di rendita sia in termini di evasione, e abbiamo un carico iniquo che pesa sulla crescita, perché pesa sulle famiglie che devono consumare, pesa sul lavoro e sull'impresa. Se non facciamo una coraggiosa operazione da quel lato di spostamento del carico, noi lasciamo al palo la crescita. Io alla fine aggiungo anche questo: è curioso questo centrodestra che è nato lanciando il messaggio che è possibile tutto, lanciando il messaggio del sogno, della rivoluzione liberale, possibile tutto. Adesso non è possibile niente. E dicevamo anche dell'Assemblea annuale della Confcommercio, il presidente della Confcommercio, Carlo Sangalli, nella sua relazione all'Assemblea, ha detto il motore dell'economia italiana gira piano, stimiamo uno 0,7% di crescita, non di più, nel 2010. La manovra è necessariamente e anche quantitativamente impegnativa. E poi Sangalli in realtà di tasse ha parlato. Io prima ho detto che non c'è stato alcun riferimento sull'evasione fiscale da quello che abbiamo visto dalle agenzie da parte del Presidente del Consiglio Berlusconi, ma Sangalli di tasse ha parlato, ha detto la pressione per chi paga le tasse è al 52%. Una manovra dunque quantitativamente impegnativa, necessariamente impegnativa, ma più contenuta di quelle che dovranno operare altri grandi paesi europei. Per chi paga regolarmente tasse e contributi, la pressione fiscale complessiva ed effettiva è allora ben superiore al 43,2% del PIL e può essere stimata prossima al 52%. E allora vedo molti messaggi al 349-238-6666 sulle parole del Presidente del Consiglio. Vanno anche capite, è uscita una statistica dell'Istat la settimana scorsa che prendeva il periodo in realtà 2000-2010, dimostrando che la crescita dei salari negli ultimi 10 anni è stata molto più alta nel pubblico impiego che non nel settore privato come dipendenti. Vado a memoria, ma era il 43% nel pubblico impiego contro un 24-25% nell'impiego privato. Ecco perché di quel riferimento. Comunque, visto che molti di voi vogliono risentire, contestano, riascoltiamo la versione integrale di quel passaggio del Presidente del Consiglio in cui ha detto, insomma, la manovra, la crisi non ha toccato pensionati e lavoratori pubblici. So che la crisi è stata dura, ma sono altrettanto sicuro che la ripresa esiste e che si fonda soprattutto sul fattore psicologico. Bisogna che la gente abbia fiducia nel futuro, che non si lasci prendere dal pessimismo e dal catastrofismo. Noi abbiamo fatto a questo proposito un sondaggio presso 2 categorie di persone che dalla crisi non hanno nulla da soffrire, cioè i pensionati e i dipendenti pubblici. Tra le tante domande c'era la seguente: avevate intenzione, visto le facilitazioni che sono state messe in atto dal governo, di cambiare la vostra autovettura? Su coloro che avevano risposto sì, abbiamo fatto un'ulteriore domanda: l'avete fatto o no? Il 76% ha dichiarato no, abbiamo cambiato idea, non l'abbiamo fatto. Terza domanda: perché? Ma perché c'è la crisi. Questo dimostra ancora una volta quello di cui tutti noi però siamo convinti, che bisogna diffondere fiducia. L'anno l'abbiamo cominciato bene, meglio di Francia, meglio di Germania, con uno 0,5 di aumento, la produzione è aumentata, credo che siamo nella direzione giusta. Questo è il passaggio del Presidente del Consiglio. Vedo che molti, immagino pensionati e dipendenti pubblici, contestano di non aver sofferto. Alcuni ci scrivono che gli stipendi del pubblico impiego sono tra i più bassi d'Europa, che le pensioni con l'inflazione, diciamo, programmata hanno visto erodere moltissimo il loro potere d'acquisto negli ultimi anni, anche grazie, tra virgolette, all'euro. Il dato corretto è in realtà più 25% l'aumento dei salari nel settore privato, nei dipendenti del privato in 10 anni, più 39% nel settore pubblico. Vabbè, la Spagna, perché ne parliamo? Perché oggi, come accennavo all'inizio del programma, sono moltissimi i quotidiani che si occupano di questo piano di cui già scrissero i quotidiani americani qualche giorno fa, che Europa e il Fondo Monetario starebbero attrezzando per in caso, diciamo, di in cui la Spagna dovesse seguire il percorso greco. È il quotidiano spagnolo L'Economista, oggi, che ripropone l'ipotesi di un piano di aiuto a favore del paese da parte dell'Unione Europea e del Fondo Monetario per tra i 200 e i 250 miliardi, secche le smentite della Commissione Europea e di Madrid. Ma anche il Financial Times torna sul tema. Lo scorso mese, secondo il Financial Times, le banche spagnole avrebbero fatto ricorso a prestiti della Banca Centrale Europea per 85 miliardi di euro, il doppio rispetto a quanto richiesto dalle stesse banche dopo il crack di Lehman Brothers. E mentre venerdì il numero uno del Fondo Monetario, Dominique Strauss-Kahn, sarà a Madrid ufficialmente per una visita di lavoro, nei giorni scorsi anche il Financial Times Deutschland e il Frankfurt Allgemeine Zeitung avevano avanzato simili ipotesi, e poi anche il Die Zeit. Allora, Michele Calcaterra, corrispondente del Sole 24 Ore da Madrid, buonasera. Buonasera a voi. E buonasera anche a Enrique Juliana Ricart, opinionista dell'Avanguardia, che è il giornale catalano della Catalogna, della regione più ricca della Spagna, ex corrispondente dell'Avanguardia da Roma. Buonasera anche a lei, o a te. Buonasera. Allora, vorrei partire con te, Enrique, Riccardo. Quanto ci credete a queste ipotesi che continuano a circolare sui giornali di mezza Europa, oltre che anche di mezza America? Beh, dobbiamo essere prudenti perché, per una parte, è chiaro che la situazione della Spagna non è proprio come quella della Grecia. I problemi sono altri, in alcuni aspetti sono più gravi, perché per esempio il deficit e anche il debito pubblico spagnolo non sono tanto così tanto alti. Per esempio il debito pubblico spagnolo non è meno alto che di alcuni altri paesi europei, per esempio la Gran Bretagna, oppure anche lo stesso caso dell'Italia, no? Però invece il debito complessivo, il debito dello Stato più il debito delle banche, delle aziende, anche delle famiglie, è leggermente un po' più alto che dell'Italia, per fare un po' un'idea sì, certo, di alcuni dati basici, no? Penso che in questo momento siamo di fronte a una situazione molto complicata, nella quale si deve un po' riflettere se esattamente cosa vuole la Germania adesso dell'Europa, sì, esattamente quali sono gli interessi della banca tedesca in questo momento, e esattamente queste informazioni di questi ultimi giorni cosa riflettono propriamente. Sì, e tra l'altro la Germania che ha, mi riferisco chiaramente al cancelliere Angela Merkel, qualche problema anche di tenuta politica. Michele Calcaterra, visto che oltre ai quotidiani che citavo, oggi anche il Die Zeit, quindi settimanale tedesco, ricorda una dichiarazione di Jean-Claude Trichet, che è il numero uno della Banca Centrale Europea, il quale, secondo il Die Zeit, vorrebbe assicurarsi che il maxi fondo per salvare l'euro sia pronto a operare in caso di emergenza spagnola. Ecco, cosa c'è? Un concerto di giornali che vogliono prendere di mira la Spagna, o qualcosa di più? Ma sicuramente, come diceva l'amico dell'Avanguardia, c'è sicuramente un'operazione tedesca di così mettere l'accento al di fuori della Germania e quindi in questo caso sulla Spagna. C'è un problema spagnolo, nel senso che il problema spagnolo è quello della scarsa liquidità del sistema creditizio negli ultimi mesi, quindi la difficoltà a reperire nuove risorse, che si riflette poi sul sistema produttivo e via di seguito, per cui più che parlare di un fondo di salvataggio, perché la Spagna non è certamente in situazione come la Grecia di default, però diciamo una linea di credito specializzata di liquidità per intervenire se ci fosse così problemi contingenti di liquidità in alcuni momenti. Ecco, questo si potrebbe ipotizzare. Allora, su questo però si innestano anche alcune domande. Enrique e Riccardo, per quello che riguarda il settore immobiliare, perché sappiamo che la Spagna aveva un'economia meno diversificata, ha un'economia meno diversificata di quella italiana, esporta meno dell'Italia, il grosso della crescita l'aveva fatto il settore bancario e soprattutto il settore immobiliare. Si sta riprendendo da quello che vedete? No, questo è il problema. Diciamo, io quando prima ho detto che dobbiamo un po' riflettere su quali veramente sono le intenzioni tedesche, non volevo mettere una cortina di fumo sui problemi spagnoli che ci sono e sono veramente importanti. Il problema numero uno dell'economia spagnola è che il crollo del credito finanziario ha fatto esplodere il motore dell'economia spagnola, che funzionava e poi funzionava di una forma in questi ultimi anni molto vivace, molto dinamica, sulla base di una combinazione tra l'edilizia, una dinamica del consumo interno molto forte, e il turismo, che è stato sempre da tempo un punto forte dell'economia spagnola, e poi un'attività sulla base di economica basata soprattutto sui servizi, e una minore importanza dell'industria. La Spagna non ha un distretto industriale così tanto forte come quello italiano, quello dell'Italia del Nord soprattutto. Sì, certo. C'è industria nella Catalogna, la Catalogna è la regione più industrializzata della Spagna, con Madrid e con il Paese Vasco, per esempio, sì. No? Però no, l'industria, complessivamente l'industria spagnola non è, ecco, tanto forte. Da collega a collega, sei più preoccupato dei conti pubblici spagnoli o della nazionale spagnola che ha appena perso 1-0 con la Svizzera? No, per veramente il calcio a volte diventa una metafora, un po', perché vediamo in questa prima in questi primi giorni l'Italia ha fatto pareggio con il Paraguay, il Portogallo ha fatto pareggio con il Costa del Marfil, credo, Costa d'Ivori, e oggi la Spagna perde con la Svizzera. Pertanto la Grecia non gioca. Allora, sì, il Brasile in compenso ha vinto, a dimostrazione che i BRIC esistono. Grazie, mettiamola anche un po' a sorridere. Grazie a Michele Cacaterra, corrispondente sulle 24 ore da Madrid, a Enrique Juliana Ricard, che è l'opinionista dell'Avanguardia. Grazie a tutti e due. Ed è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Un ultimo aggiornamento da New York, che adesso invece va in pareggio, invariato l'indice Dow Jones, Nasdaq invece ben impostato, 0,5% di rialzo, euro a quota 1,2322. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi, intanto una buona serata da Sebastiano Barisoni. Radio 24, la passione. Si sente.